fufia! A fufia! E... Casino questa frequenza. Infatti mi sono qui a rompere delle balle, ho fatto un buon condotto. L'antenna me la collego sui ponti e si abbia il culo. Certo, boh. Io giù prendevo un po' ciuccio. Ah, sei giù col cane? No, oh, in casa cosa giù? Ah, vabbè. No, pensavo che era Luca perché stava facendo un microfonino, vabbè, se usciva bene. Sì, però positivo non ci stanno problemi, che beh. Cosa? Non ci stanno problemi, che beh. Ehi, ehi, va bene, va bene. Là, purtroppo non venisce nessuno, Tutti in riposo, io mi sono manco riposato. Stato a fare un lavoretto, per me, non lavoro per gli altri, per me. Ho risolto, adesso sono qua di nuovo. No, lui, io non mi riposo. Io me ne sto nel divano e metto il telefono silenzioso. Dall'1:30 alle 5 non voglio che nessuno mi rompa le palle. Almeno sino alle 5, perché poi iniziano i messaggi e quelle, quell'altro, pubblicità e le telefonate, qui e là, capite? Quindi dall'1:30 io mi siedo a pranzo, il telefono lo stacco, lo riaccendo alle 5 praticamente. Lo riprendo in mano alle 5, capite? Io alle 3 sono andato, alle 3:15 sono uscito, sono andato a prendere l'aria al lavoro. Ci siamo fermati a prenderci un caffè. Sono arrivato a casa, non mi ho giocato manco la vibe. E adesso la vado a ribere. Io mi ho finito adesso di preparare le seppie con i piselli per stanotte. Capite? Quindi ho già preparato anche la cena. E mi gioco bugiato là, fatti il gonto. Vabbè, anche poco fa. E dovevo andare a uscire prima solo che la macchina non ce l'avevo. E sono uscito intorno alle 3 qualcosa, boh. Ho fatto quello che dovevo fare e mi sono rientrato alle 4 qualcosa. Ma io non è che mi curico nel letto, nulla. Sto nel divano e guardo la televisione. Mi viene da biocco, però già sono abbastanza sveglio, capito? Però sono uscito alle 3:15 a prendere l'aria, sono rientrato alle 3:30. Mi ho finito adesso di cazzi preparare la cena, in modo che poi, all'ultimo momento, capite, un casino, che poi alle 7:30 devo portare il cane. Già ne ho da fare tu, già ne ho. Tu, guardi, adesso domani ho un altro televisore, praticamente da 2 ne devo fare uno, e poi un telefonino devo cambiare display e batteria. Infatti sto pensando, c'ho un amico che ha aperto una pizzeria, e vuole un esperto della zona, qua di Carbonazzi. Sono convincente di andare a portare i bizzi la gira, vi credi? Può ammazzare lo devo, può non stare buttato qua, cazzo, dalle 7, tutta la gira, dalle zinco, non dalle 7. Invece me ne vado in pizzeria con lui, alle 7:30 inizia la consegna, dalle 7:30 alle 10, e poi me ne torno a casa. Parigussimo non è fatto, è stressante come lavoro. Devi gamella, capito? Già, ma l'ho fatto pure io. Non è semplice, poi trovi il cliente un po' così, ti ci girano le balle, la pizza è arrivata fredda, la pizza è così, ci manca quello, ci manca quell'altro, non te la prendi, la devi portare indietro, va, per carità, non infacca, va. Sì, ho fatto il corriere, io già lo so cosa vuol dire avere contatto con i pacchi, con i clienti, già lo so. Ma giusto per ammazzare il tempo, me la fotti nuda di là. Capito? Me ne sbatte un cazzo. È proprio per ammazzare il tempo. Adesso mi da qua, da quest'ora, fizza alle 7:30, bucia dei roghi, non vuoi un cane, intendi un GRM, alla fine ha ragione Luca. Alle 7:30 esco, porto il cane, rientro alle 8, ceno, televisione. Boh, arrasa di vita di gas. E tu pensa a quelli che stanno peggio, ma io già mi rubassi sul tempo, qua. Là, tu passate il tempo, cosa fai? Se voi venite dei roghi a casa, da mamma, ti do un po' di schede, cioè, se dato che ce l'hai, la spira stagno penso che ce l'hai, ti assiste anche tutti i componenti, e ci passi il tempo, non ti porto io. E io ho provato anche quello, mi sono rotto le palle. Ne ho anche io di quella roba lì. Me l'ha data un amico di Roberto Quadrato, un amico radioamatore. Mi sono messo a smontare, a fare, ma poi mi... Devo uscire, devo stare fuori di casa, cazzo, ma posso più stare a casa, capito? Sto volando la mano a mio cognato, ma non ce la faccio, perché come sforzo, per appena, in cantiere mi fa male la schiena, quindi non posso fare più un cazzo, è quello che mi sta venendo nervoso. Ma anch'io lavori pesanti, anche se capita che... Più vostro, insomma, la giornatina te la devi guadagnare. Lo so. Ah, io già me la ammazzo così, poi gioco col cane. Insomma, qualcosa da fare già c'è sempre, dai. Guardo la TV, insomma. Già, tanto si torna a Sanrami, comincia a pizza e torte, mia zitta. Quello è il problema. Non lo so. No, io non è che mi devo mettere a fare, guadagnare lo stipendio, non me la fottuto un'idea di no. Il problema è il tempo, non passa più il tempo, cazzo, mi sta avendo una noia allucinante. Ti capisco, Cla, ti capisco, vabbè. Noia, casino, Comunque la torta l'ho mangiata poco fa, più buona di ieri, bella, città veramente buona, ma un burro, buono veramente, senza burro però l'ho fatta, Ci ho messo l'olio al posto del burro e poi ci ho messo tutti gli altri condimenti. Siccome il preparato per le torte c'era già il lievito, io gli ho aggiunto un altro po' di lievito, un altro po' di farina, ma è uscita veramente buona qua. Già, è buona. Se le sai fare queste cose, falle. Uia. Cazzo, lo sapevo che era una noia totale stare a casa. Ero così contento, cazzo, mi venendo la disperazione. Non passa più la giornata, cazzo. Affanculo a me. Anche la poco mi ha chiamato l'azienda, se volevo rientrare per 5 mesi, ho detto di no. Ma vaffanculo a me, cazzo. A più di rientrare per 5 mesi. Bah. Vabbè, siccome c'è gente che sta facendo dei corsi, delle cose, manca personale, quindi mi facevano un contratto per 5 mesi. Vabbè, pazienza, ma sto a casa, tanto, che cazzo vai? Cla, lo so, non è facile. Tu non ti sento, eh? Ma anch'io stasera ti sento male anche a te, a tratti. Me l'ha detto anche Franco, a fare da rovumo l'antenna, c'era piena leva, c'è cazzo di gioco. Te l'ho detto, ne tolgo tutto qua, una frequenza di merda. Boh. Sento tutto frusciata, secondo come metto la radio arrivi bene, secondo come metto la radio non arrivi neanche. Claudio. Sì, anche tu è così. Chi è? Io, come va? Io non ti ho riconosciuto, io non lo conosco. Sono Francesco. Come? Sono Francesco. Tu sono Francesco, il baritonio Kawasaki. Io non conosco Francesco, non so. Non ti ho riconosciuto comunque. Se tu mi conosci. Io non ti ho riconosciuto con questa voce da orco. Da orco? Luca! E chi è? Ma dove fare cazzo due? Sei capoci da Magoni che fai? Sì, nasu. Ciao Claudio. Ciao Tony. Sempre con quell'antennino stai uscendo. Ehia. Tony arriva fortissimo, ecco. E anche qua arriva un po' più forte di prima. Vedi cosa vuol dire mettere l'antenna a corta. Io ho cambiato l'antenna, ho tolto la lunga e adesso Tonino è un po' forte. 9 stai arrivando, prima di 5, 3, 5. Ah, ci butta un po' da zeddo. Va bene. E la radio quale stai usando? Quella col microfono, per capirci. K. Arrivi bene. Arrivi più forte di Emanuele adesso. Ok. E allora cosa mi raccontate? Ho già fatto un po' di gocce di acqua, dai. Ma giù o sollevarla, boh. Avete parlato in due, lui. Acqua ha fatto Tonino. No, non ha fatto acqua. Ha fatto un bel, meno male si è messo a maestrale, è un po' pulito. Domani c'è un po' di tregua, mercoledì, giovedì e venerdì è peggio di oggi. Tutta la difendeva, cazzi. Per tre giorni. Che capita, io faccio anche del riposo, ma però me lo vedo bacimiglia, che schifo che. Sto dicendo, mercoledì, giovedì e venerdì c'è allerta meteo. In Sardegna siamo arancione, in tutta Italia è rosso. Figurati, sono temporali e acqua a go-go. Ok. E la gara fa pazienza, voi che scivo con l'ombrellone. Lo so. Meglio di prima mi ascolti a me, Tony. Tu hai aumentato un bel, io ho cambiato antenna. Non ce l'ho più quella grande, c'ho una piccolina. 9 e 10 qua, sì, là. Se sono forte, se scendo. E a te Luca invece, come ti arrivo io? A fondo scala, sì, a matta di Nivaria. Se mi farà la mazza, boh, ma dimmi tu. Arrivi fortissimo, Tony. Arrivi fortissimo, fondo scala, e radio super 5. Sì, allo monte tu, Luca. No, io sono qua alla Tadolce. Ah, ecco perché allora. Ma sono con gommino però, eh. Che cosa? In gommino, gommino. Con gommino sì, E arrivi fortissimo, un bel forte. Andà bene. E allora, qua, tra poi, mesco. Che vado a Lido, qualche promozione che hanno messo oggi, che oggi è lunedì. Stavo dicendo a Luca, non ho via totale. La mattina non puoi uscire perché sta piovendo. Se no di solito esco a fare un giretto, in moto, a piedi. A casa mi viene della disperazione. Via da te si travagliando, a te vale a bizzarra quando sei in pensione. Spero che abbia qualcosa da fare, se no è un casino. Io ho sempre cosa da fare, metto in moto quei macchinari, già lo sai. Qualche attrezzo già non mi manca. Lo so. Però non è poi tutta la difendi gli anni baccone. Non lo so. Anch'io pensavo la stessa cosa, già ne ho da fare, faccio quell'altro. E invece mi vede la disperazione a stare a casa. E comunque, mi hanno già ordinato addirittura una porta per un terrazzo, quindi appena fanno il tempo. Ia, va bene. Oh yeah, carori. Chi è? Chi è che vuole entrare? Cazzo, ci fa il gatto oggi, vuol dire che sei in andropausa, dummi. Cazzo, mi c'ho 30 gradi, vola. Beh, grazie, ciao, Tony. Ciao, Cicomino. No, ci sono 15 gradi, non 13, 15. E da te, io che viene 13. Ho il termometro fuori, nella finestra ce n'è 13. Non ti dimenticare che sono a 280 metri io dal livello del mare. Tu sei a 50 metri. Con la brittella. Siete bassi voi, sei cazzo in pianura lì, non che siamo in montagna, E rimane un'aria fredda, cazzo, da oggi, lo allucinante. Ho chiuso tutte le finestre. Ah, so, avete avuto l'inverno, eccolo qua. No, non è arrivato ancora l'inverno, siamo ancora in autunno, non ti preoccupare. Con l'inverno ci cagheremo sotto quest'anno. Vabbè, era tutto inteso, dai, l'inverno freddo, capito. E la salva. Vabbè, dai, io vi saluto, vado a sdraiarmi un po' nel divano a vedermi un po' in TV, là. È troppo presto, sono le 5 e mezza, cazzo, ma non ve la posso attendere che ho bugiato, là. Ciao ragazzi, a più tardi se coincide. Ciao Tonino, Luca, Manuele e compagni, ciao. Ciao qua, buon corretti allora, salutone, ci sentiamo. Avanti Luca. E a dopo qua, là. ciao. Se va mi zisci pure io, Lu. Che caso stiamo offendo, per carità. E io non ho roba di fa, e a voglia, sono qua. Ne ho roba da fare domani, a voglia, e mi passo il tempo, guarda che una bellezza. Capo. Avanzo la tua ciocca, a una monza, a una monzina. No, mi hanno detto anche se andava a funghi domani, no, devo fare roba. E se c'è l'usore, se no non ve ne acciappino. Allora che 2-3 di soli devi fa. Ce ne sto già un paio di malasuffi, altro che. Vabbè da lui, ci sentiamo che esco. Ciao ciao. Ciao Tony. Luca, ci sei? Luca, PMR, PMR, Luca, ci sei? Garoli. Finita a fare malattie che stanno bloccando l'ambulanza, sto per dire. Sta andando via. C'è una rosa, dentro la rosa. Gomari. Che? Ebbene, riposando hai. Sono gatto. Il cittadino è abbattendo la televisione, ecco che è. Andale, andale, uia, stai ponendo da davanti il tempo, eh. E tu non mi dai che ti sei scittato davanti? No, non lo so, va, sto guardando la televisione, poco fa, e è finito un film che stavo guardando sul 20. E allora, già sì, su, ansura, per provare il microfono che me l'aveva sistemato Torino, che l'avevo dato a Torino a sistemare. E boh. L'ho sentito poc'anzi che stava parlando con Claudio e Luca a Torino, l'ho sentito poc'anzi. E andare, andamene meda. Io, cazzo che tempo. Beh, non ti dà il figuro manco di sci a fare qualche cosa. E ho 10. Certo. Ah va, ti mi vai sciacchi, fa freddo. Caldo era caldo, era troppo caldo, dici pacchi era caldo, non sei mai contento. Sì. Io non ero in scena che va il problema che faccio. E tuttora sono in scena che ancora mi passano i maleranchi. Non vedo l'ora di la camminare, la curritola. Andiamo bene, andiamo. Boh. Ho capito, non siamo mai contenti noi, cazzo. E dove fa? Io mi sono incalenato, mi sono capito la televisione. Un'oretta, no, di più, poco fa l'ho acceso, quando c'era Claudio e Tonino. Ma era cucente a vedere la televisione, capito? Ma quello là sto usando Giamari? No, sto usando il portatile. Andare. Ok. No, non l'ho tolta quell'antenna, no? Da lì, capito? Non l'ho tolta. Giamari! Sei tagliere! Ma accendo! Perché sei così basso? Basso sono! Eia! Oh, sei terra, terra, sì, Viru. Hai un po' di vacchetto. Ai, Luca, Luca. Aspettore. Dammi così. Ora va se correndo in bicicletta, che Luca l'ha preso. Tore, e cosa stai facendo? E tu dammi così. Ma sono dormito io, no. La sorte nera. E mi sito. Pensa sopra modulavi. Tore! Incinto! Ma che c'è, Graziano pure? Tore! Incinto! Incinto, Giomari! Che tenere! È dormito, Giomari, è dormito! Per carità, gatto! Ma mi è sembrato una voce di Graziano, o Tore, la grave di... La voce di Graziano, tu sì! Allora ho preso un lapis, dai! Gatto, dove sei, Lu? Qua, vicino a te, Giomari. Ah, adesso ti sento bene, però, Poco fa eri basso, forse eri lontano. Certo. Ah, vai, adesso già va bene. Andiamo, vai, andiamo. E già era attore, prima attore. Lu. Ah, tu, Giomari, che ha preso prima un lapsus, ma se non eri tu. Padre, ma cosa ti è arrivato, l'Alzheimer? Ah, che poche parole però, Dico, ma, com'è? Siamo visti, Zeri, aiuto, che ragionamento. Però, cosa volete che ti dica? Ore, andiamo me, andiamo! Oh, Gio Maria, andiamo Mari! Che cinco oggi non è uscito, Sazimari! E che è Sazimari? Cincolino! Oh! Bebù! Catta, e allora? Allora bisogna chiamare chi da macchina! Mi sono arrivate le mie cose, Otto! Non sono belle cose, cosa avete voce a io? Mi sono arrivate le mie cose. Già rividi? Le tue cose ti sono arrivate. Via da te. Ehi, non fare la stupida però stasera, eh? Te su Gio Maria, ci sono arrividi le cose, ci sono arrividi. Ah, vuol dire che domani fai il temporale. Ehi. Anche io sto usando quello, ma stai usando, sta uscendo basso però. Prima era ragazzo fondo scala. Finirà che non è così, tanto a basso. Finirà. Ieri ti sentivo a fondo scala, mi arrivavi. Sì, a che vai lo smitter vai allora. Fa sapere che se arrivi a fondo scala vai lo smitter. No, c'è un altro strumento che mi sembra segnale. Non ce lo smitte. Ecco, guarda che ti cresce il naso lungo ti cresce. Smitte non ne ho, solo la parte lo smitte. Gio Maria, te giurai, hai detto che arriva nel basso. Vabbè, l'importante è che ti senta a ma è di figo però. Di figo, ma tu mi intendi, sì, e allora cosa vuoi di più? Otto. Così è, andiamo. Per carità. Luca! Mica Gio Mari. Cos'è che stai combinando? Mi, giù cane con cucciuccio, non l'hai visto quel cagnolino che c'ho? Allora, illuminaci qualche cosa, dai. E ho detto, non l'hai visto il cagnolino che ho preso? Hai visto, Otto? E non pensi cosa ti ha detto, Gio Mari? Gio Mari! Cazzo, Mario va a vedere Gulomba. Ore. Illu. Ah, mi intendi? A Gio Maria, lo chiama e non rispondi. Non lo so, cosa era andato in bagno, cosa era andato in cucina, cosa ne so qui. E vabbè, comunque stai usando l'88. Lo so, 8. Ehi, l'88. Ma col suo gommino, eh? Senza gommino, con l'antenna. Ah, io pensavo che era col suo gommino. No, non ti arrivo da qua, dalla camera, io con il gommino. Allora, io con l'888 da qua non esce neanche da Luca Flippe, neanche lì mi ascolta. Uso l'altro, quello col display grande, sempre portatile, della Abre. Ed è una canonata e mi sento anche Claudio da casa. Così è, andiamo a vedere. E tu Gio Maria siete in una posizione buona, ecco cosa è. Siete in una posizione buona. Io invece che a me c'è qualche cosa che non. Qualche palazzo che mi disturba. Ma se sei in mezzo alle palazze, non è di 8 posizione buona, se sei in mezzo alle palazzi. Non c'entra nulla quello non c'entra nulla, ma la zona è buona. Sì, la zona è buona, si ragiona il figlio, se lo matte se pure si in un luogo sarrado. La zona tua è buona lo stesso. Sì, non è sei buona la zona mia, hai compreso? Devi mettere un bel in alto per uscire bene. Vabbè dai, sarà così. Ciao così, Otto. Ma perché non stai uscendo bene? Cos'è, Ocla? Attore, perché non sto uscendo bene? No, mi dice la mia zona buona, siccome stavo dicendo che lui sta usando l'888, il portatile con l'antenna esterna, e ha detto io ho usato l'888, non riuscivo da Nokia a Santa Maria di Ibiza, invece ho messo l'altro, Lebre, Abre, e mi ascolti anche tu col gombino suo, fai sadu. Sì, arrivate bene, ma non è fatta una malattia qua, ma quando vi sentite uno con l'altro, questa non è frequenza come la 27. Puoi uscire anche senza segnale, uno vicino all'altro, l'importante è vi sentite di radio. No, questa frequenza non funziona così, capito? Sono frequenze molto, molto, molto ristrette. Quindi è già troppo che ci sentiamo, ma cosa vi nafutti? Va bene così. Basta ci sia la radio, già di nafutti delusignati. E appunto, basta che ci sia la radio, sì. Anche se non va la radio non vi nulla. Magari va delusignare e non va la radio. Allora, non è che dovete arrivare in capo al mondo. Sono frequenze così, giusto per sentirci, basta, cosa di nafutti. Cosa te ne frega? No, non è un problema. Basta sentirsi, fare due chiacchiere, intanto se di uno attacca dall'altro, il più lontano sono io, quando arrivate qua va bene. Vai to! E ne vuoi andare? Ciao Claudio! Dove vuoi andare? Io non so come ne esci il lugo, so che no, cava. Allora che mi dici, vai to! Certo! E beh, hanno di imparo di bello! Allora ti dico biglia, ero a tessi! No! Allora, seriano, ok. Vai e pigliala, su due gocce di pesce. Ciao Otto, buonasera. Arrivate bene te due, arrivate bene tutti qua, non ce n'è problema. C'è chi ha segnale più basso, segnale più alto, c'è chi non ha segnale ma esce di radio. Ma cosa viene a futti? So che a questa bugana è tutto in oggi. E riattaccarmi l'antenna sui ponti, intanto. Non vuoi mai nessuno, ma anche in oggi. Per fare cose sui punti, paghi, no? Non devi essere radioamatore per farlo. Anche perché ci sono i codici d'accesso e ci sono i toni per entrare, se no non puoi entrare. Ho capito. Se non sei radioamatore, già te ne vai dei bonti, vai curta. Io se mi attacco l'antenna parlo sui punti. È diverso, no? Invece di lasciare una radio in oggi, pa' fa cosa, boh. Nuda. Andare, vabbè, non c'è più nessuno, ui, non c'è più nessuno. Ah, poi non c'è dialogo, non c'è niente, no. Sto rompendo un po' le palle. Andi Ludesi e fa vedere di astronauti, di Gogi, di discorsi che a me poco mi interessano. Andi lo 23, non c'è nessuno, quindi Ravini, mi pare che ha ragione Luca. Ce ne vuoi che te fai prima? No, io non ne tolgo niente, io lascio tutto, ma vado a trasmettere in altre frequenze. Cosa vi fai a sta lampada no, che è con la QRM? Non vi fai nulla, infatti. Non si fa niente, prendi trattore. Oh, che va di niraduno io? Ah, seriale, hai capito in un bizzone. Quello ti assomiglia. Mi assomiglia? Se non bisogna da assomiglia. No, non so io, no, è ballato bassone. Allora che lo dia a me. Certo, ma vai da chi su. Beh. Ah, no, stasera non andiamo d'accordo con te. Vai da cosa vai, 40 metri, 20 metri, 80 metri. Dos elementos monobandas, questo è il Portogallo, cazzo, sta arrivando 5-9 più 20, figura, dice non ha ce la favità. In 40 metri sì, ho qua. Ma io non ricevo dal computer quanto è Marco, io ho le antenne. Questo è il Portogallo, 9 più 20. C'è l'analizzatore di spettro, lo dimette di Marco, che sugar, aspetta che si è sollevato qua l'analizzatore, ho visto un grafico, cazzo, 9.40, che cazzo è questo? asciugas. È un po' di propagazione, c'è. Cazzo, io ho capito, ascolta dal computer, ma con che cosa? Con qualche programma? Così dicono, io non me ne faccio niente, cos'è? Arrasta. Sì, un bel di propagazione. Un bel di propagazione. Io ce l'ho nel computer. Molte volte li ascolto. Sì, uno ascoltare il computer un po' di famiglia, uno è accendere il radio e sentire questi segnali, vedere questi segnali. Io ho la radio con l'analizzatore di spettro. C'è un grafico micidiale, non c'è uno spazio libero. Un bel daghizio. Questo è 7142, è pieno di gente. Andiamo, andiamo, che vabbè, dai, dici che mi faccio due chiacchiere a vedere se mi sentono. 7142.20, diploma, avevo già detto questo. Diploma? Cazzo, chi tu l'avevi già i diplomi? La delle zonche. Ok, 431275, non sei mai entrato. Luci, frequenza vera, linea nazionale. Ma no, tenante. Oramai hanno attivato l'R0, i nostri punti di nuovo li hanno messi a posto. Ma a parte non sono mai entrato lì, non mi interessa. È un covo di maleducati, cazzo, per carità. È più incasinato su 431 che la 27. Siete maleducati, c'è uno che rutta di continuo, papà, carità. Si fissa che andano a rubi segheggi, hanno messo nel vattaglio sui buoni a Riganzoni, 40 metri. Gli hanno messo 6.000 euro di multa, ritirata la licenza, la patente e 6 mesi di galera con la condizionale a chi praticamente è un uomo da 80 anni. Peggio della 27 in 431. Sì, vabbè, quello che sentite voi non è il continente, non il ponte. Quello è un link, è linkato a Villanova Monteleone, c'è cioè un link, infatti si chiama link nazionale per quello. È linkato a Villanova Monteleone, c'è cioè un link, un ripetitore che prende il segnale dal continente. Capito? È per quello che arriva bene. Tasterino, cos'è questo? Baleari? Portogallo? Portogallo? Non è neanche il Portogallo. Barcellona? Vabbè, to, rumellisi. No, mi sarebbe dentro un televisore, buru. E cosa vedi interessante? Ah, un telefilm, beh. Allora, si è entrato il 30, una drappola, si è passato, ne ha scicato rubini. Male li ha fatto. Vado su Rusia. E non ha seccheriato. Andiamo, beh, andiamo. È colpa di Luca, me. Se si è annuato oggi. È vero. Allora, buffonelli. Così ti piace. Ma che cazzo? È vero. Ehi. Ehi. Tore, bene, mi senti? Ehi, non ti tendo ovvero. Catta. Vero, Manuel? Ma voi due non ci avete 706? Perché non mettete un baracchino e quelle radio lì le usate per ricevere, cazzo? Boh. C'è un sacco di cose da ascoltare, to. Questi. Chi se palò? Questo c'ha 82 anni. In 80 metri sono, dai, non sono più in 40, c'è anche l'antenna degli 80. 9, la massa di Livaria, palò, 9.15, 9.20 sta arrivando. Cazzo, no dai. No, ci sono, scusate, soltanto che... Cosa zia Cutlendi? Era che stai ascoltando? Ma sono io, qua. Sì, ma non si capiva niente. Il computer non si comprende un accidente. È tutto brisacciato. Questa la senti la voce? La senti da bene la voce? Sempre chiara chiara. E un grido, è 9:20. E poi ascoltando dalla radio con tutti i filtri che ha, nel computer cosa cazzo buono, i filtri. C'è un po' nel vitro della sigaretta, era buono il vogo. Spazio ci vuole, Emanuele, per le antenne, spazio. Cazzo così, al dipolo degli 80 metri è lungo 30 metri. 35, 38, quasi 40 metri. E adesso provo io a sentire. Guarda, se li senti gli 80 metri, io sono a 3643.00. 3643.00. Pensa, vedi? Ma li senti? Aspetta un attimo, è commuto. Speciale esserci ancora e non seguire con velocità. Io là già li senti. Ah? Ragazzi, io vi devo lasciare, ci risentiamo dopo, ok? Ciao a tutti. Ciao Otto, ciao, già siamo qua. Bene, ti arrivano, Manuel. 3143. Sì, a 3643, bene, ti arrivano. Ah, sì. Vabbè, ti arrivini o ti arrivini? A me vai, non intendi nulla, tu vai alla radio sotto. 0 sì, ma non sei a 3643, no? Ehi, li ascolto bassi bassi. Ma questo che sta parlando adesso, lo senti? Beh. Sì, 3643, ma l'ascolto bassi bassi. Basso basso lo senti, non è con quell'antenna, lì vuoi andare. Qua arrivano, con il polo degli 80 sono 9:20, 9:25, 9:10. Forse sui 7000 li sento meglio. Eh beh, questa è più lunga. Frequenze basse. Non hai l'antenna, non fa. Chi tu non sei tu? Eh? Ah? No, ho capito. E non sei tu questo? Sì. Li senti, fammelo sentire. Ti arriva, va. Che segnale c'ha? Francesco Zero, solo di radio sento. Frequenze basse, se non hai l'antenna. È un casino. Sui 7000 dovrei sentirli meglio. Ah, 7000 è un casino niente. Qua almeno c'è questione, 80 metri a quest'ora. 7000 c'è uno attaccato all'altro, ci comprendi nulla. già la gentesi. Comunque è Claudio. Io mi sono cambiato il potenziometro del portatile. 5 microsaldature, perché l'altro si era mezzo rotto. Ma aveva dato Luca, adesso è a posto. Stai uscendo bene. Anche che non bene un bel duro quello là, è un po' storto, da me a causa della radio in terra. E si è. Cioè praticamente ne farà da capo a terra, me. E si è fatto un po' storto, allora l'ho riadrizzato. Ma non andava bene, era troppo duro. Allora me l'ha dato Luca, glielo sostituito, sei perfetto. Già va bene. Aspetta un secondo, che arrivo subito. Un lavoro delicato, dai, anche io mi assento, arrivo subito. Claudio. Dimmi tu. Claudio. Eia. Con questo mi ascolti, sì. Ma certo che ti ascolto. Vedi il segnale con questo e poi mi dai l'altra. Qua sì, segnale di due, prova con l'altro. Vedi con questo. Con questo sei 9. Andare. Mi abbarano io, per carità. Ti ha annoiato di sì. Giovani cas. Ora abbarano io adottare oggi. Adesso la televisione non mi ha scritto, non vuoi. Tutti i film cazzo gli ha dati. Infatti sono tutti i film già dati, allora, per carità. Ma io finisco i canali, non è che finì un giorno, ci sono tanti canali. E qualcuno in qualche canale da che film non hai visto. No, prima stavo guardando quel film, telefilm, serie TV erano, su 20. di questa qui che era un'infiltrata dal carcere, era bello, però aveva già bardato, non è più nuda, tutti i film dello 30, per carità. Mi pare che c'è su 20, c'è Igo, che si dice di boh come? Passaotte. Mi pare, aspetta, mi pare che saluti, aspetta. Igor, senti, Igor, ma chi è quello che fa coso? Jean-Claude Van Damme? Aspetta, saluti, comunque, allora 21 e più. Sì. I saluti, ed è su 20. Beh, sono tipo, devo essere dalla California, gatta. Voglio dire, gatta, a pochi cudi di me. Ha pure la cosa, chissà lotta giapponese, come cavolo si chiama? Jean-Claude Van Damme. Chissà pure l'altra, chissà lotta va già che vuoi. Come te ti gioca di dronca. E la carta bandemo, a vedere. Vai infatti. Oh, qualcuno l'ha già visto, ma qualcuno no. Che ogni tanto i giambari che ci vive, mi capito? Se ci vuoi c'era tutti, i soldi lo vedo magari su prima, da poi domani lo vedo il secondo, e cosa è vario, hai capito? Alla bene merda, e se non mi devo abbandonare da internet, quello che c'è da fare la televisione, ma abbandono su internet un film. Anche quello, e se no paghi. E te vedi i film che piacciono a te? No, a parola non pago nulla. Quello è così, la connessione del telefono alla televisione. Ma da vedere. Ma Sky da si vede i film, fate di schifo. Non è su Sky, ma c'è un programma per vedere i film, Giamari. E me ne sono tanto nei buchi di film, da vedi. Da vedere la televisione che ci film, gatti. Poi specialmente chi si manda, alla manco per rimani le figure, gatta. E che c'è di moderno, va. Cazzo, 42 alla gente si vede di me. Che cazzo mio, è 60 pollici. A vedere, si deve come. Da vedere. Ma è a venire so, dai. Se ne so. Io so cosa ti faccio dentro, non mi piace più, mi fermo, cosa vuoi fare? La sera, la notte però, a chi prima è cambio mi cocco, accendo la giugia, se no non trombo. Da poi c'ho con poco la giugia accesa, per un giorno non lo chiudo. Allora, se la accendo, anche se c'è un film che non mi interessa, la lascio acceso. Ecco, per esempio, ma non prendo il telefono. Certo. La telefono non la sviccio mai, ma manca il computer, anche i documenti per il computer magari la sviccio, però il telefono no, mai. Già uso poco e niente il telefono. Attenzione, sì, caso so che per esempio, vai a Fisero, ma ogni tanto c'è l'abbaito, ma non è che l'abbaito, che abbaito tutto, capito? Secondo cosa che non l'abbaito nemmanco. Però la luce, quando sei magnete, sei con freccia che sei magnete, la baita dieta me la baito io e buro. Allora, Claudio, ci sei ancora? Sono qua, sto facendo cosa, Manuela. Ciao anche a Gian Maria. Riprendete, intanto adesso fra un po' esco col cane, prima che piova. Ok, dai. No, non faceva, no, sembra che sia un po' liberata l'aria. Non si comprende più nulla, allora per usare dai cabacchi. No, Giamari. Ok, ciao Cla, buonasera. Io che pure per usare. Già soffro un bel freddo a piedi. Aveva freddo a piedi, ma ci buccia i botti. Due botti grossi, ma ci buccia, va. Sì, io vi faccio gachi gachi, e so, bisogna stare gassetti, Giamari. Abbiamo atteso, io soffro un bel freddo a piedi. Poi se mi ghiaccia di mani, catta e... che se non mi ricavi non mi fate manco riposare. E dai che sono la sirena. Amici, dici con me? Sì, a voi, a Tony, e di sì. Come sono? Sono stato io. E a Gallonada, 9:20 sei qua. Addirittura. E addirittura, Gio Mario lo senti? Ciao Tony, ecco non lo sento, quando scala. Dove siete? E buono, non so se c'è, doveva scendere il cane. Ah, capito. E l'ho trovato col baufè, quello piccolino portato, hai capito? Se bene, se bene. Sono lì. Ehi. Lo sai che non te ne trattene? Io sai che avremmo fatto il magazzino. Che male, non va bene. La fuglia. Fino a giù una sabinolenza io. Mi pare mi attacco qui, sapete, si esce. La piccola. Ehi, ah. No, attacca lì, attacca che ti ascolto. Vabbè, io ti ascolto anche senza antenna. Che c'è un antennino mi? Cosa c'è un antennino? Mi pare che 30 centimetri, ce l'ho fatta io. Guarda, hai visto che c'è un burocrato, ti puoi immaginare come te che sei per il magazzino, hai visto? E mi intendi, boh. Ehi, come quella della Tattorino? Beh, se con quello già esci, cazzo. Va bene, va bene. Quella ti ha accordata bene l'antenna mi. È quello che vi ho detto, è accordata sì. Adesso devo usare l'altro. Accordata bene. Mi sembra che ci abbia uno stazionario solo e basta. È un tacchetto. Vai tu. Adesso ho usato quello che mi ha detto Gio Maria, quello piccolino. Ma se fa una scala. Vedo un po' come va, va benissimo, cazzo. Cazzo. Ma a casa sei Tony? Cappa Gio Maria. Sono in casa. Ehi, arriva, cazzo. Dallo qui che arriva. Va bene, Tony, a voglia. Cazzo. Cosa ne fai un'antenna sulla gabicciuria? Già ti sento localmente. Poi bacchi 5 minuti che facciamo, già andrà bene. Guarda, ce l'ho esattamente in camera da letto appoggiato sul mobile che ho fatto io. Preso un po'. Uno spezzone piccolo di 40 centimetri con due PL. Sei un po'. Va bene, cazzo a bruglia. Va benissimo Tony. Ma quello te lo devi mettere in cucina e l'altro lo usi come quando sei in camera. Figlia. Non ci penso, l'altro lo uso in camera, questo quando lo uso. Ho detto, l'antenna che ti ho dato io, la usi in cucina. E l'altra la usi con l'antenna esterna. K, sì. Capito, Tony. Chiama lui. Ciao, capretto. E provate a metterla in cucina se esce. Che cosa? E provate a spostarti in cucina se esce col portatile. Sì. Dai, aspetta. Lo metti sul coso della finestra. L'attacchi lì, li fa la massa. E dovrebbe uscire bene anche da lì. Almeno ce l'hai anche in cucina, quando stai cucinando te lo puoi accendere per ascoltare. Un attimo Manuele, rivento subito. Vedi. Manuele, mi senti? Sì, a Giulia. Ce l'ho sulla fretta in cucina adesso. Se lo vedici. 107. A te Gio Maria, ti arrivo? Si è allontanato un secondo, riprendo subito. Dai cappa. E ce l'ho sul davanzale, sulla cucina, dove c'è la finestra, quel marmo nero che c'ho la piantina sopra. Ho già lì, va bene. Arrivi anche qua, ciao Tonino, ciao Manuele, ciao Gian Maria e ciao anche a Marino, ciao. Sono in ascolto, continuate pure. Ciao Giulio, mi fa piacere che arrivo anche a te con un antenino talmente piccolo, gà. Sì, arrivi anche molto bene, molto molto bene, non c'è problema. Ma voi dai, continuate che io sono in ascolto, che sto facendo una cosettina. Ok, Marie, ciao Marie. Non c'è Marina giù. Ehi, già c'era, potete dirmi. E già c'era. Se c'è la Gio Maria c'era. Potete dirmi, noi siamo vicini, siamo in segreti, non hai capito. E allora sta facendo vedere che è poco, io a Marie non ho sentito. Vabbè, ma io sì. Siamo vicini. È facile non sentirci noi due. Ma voi dai, continuate che io continuo qua, ciao. Ciao Gio, vai Tony. Capa, ciao Giulio, ben sentito, buon Corix, buon TV. Va bene, dai, ma non è che qua spengo, che devo caricare, c'ho la batteria scarica, questo portatile. E beh, quella roba lì, guardate, dai. Non ho capito. Quella roba lì, guardate. Quale roba? Alido. Sì, niente trappano. Ce n'era uno solo, quello piccolino piccolino, che non è come il mio, fa schifo. Quello fa 2-3 invitature e si scarica. Allora, per fare una bella cosa mi devi vendere uno dei tuoi. Cubetti! Cazzo via! Cazzo, me ne ho comprato due, perché cazzo non sai mai, se ne faccia uno va giù l'altro. Cazzo, in 2 minuti 40 euro con la batteria, mi. Quello lo vendevano 19,90 solo il trappolo, senza batteria. Infatti ho controllato lì e ho detto, scusi, ma è la batteria? No, la batteria è a parte. Anche 19,90. E beh, quanto hai pagato ti devi solo, no? Me lo devi dare gratis, no? Vabbè, ma cazzo, Manuè, e dici non è buono né più me, è comodo, gà. Ehi, dai, cazzo, tuo figliuccio, già si può fare un occhio, lo puoi chiudere. C'è anche la pira, ancora non vi vedi. Lui, quello lì va bene per me, visto che ho tanta luce io. Seria. Dai, già ne parliamo, dai. Ok, ok, ma non è così casino, no? No, non mangio più gana, no, no. Mi faccio una bella pizza a 4 formaggi oggi. E te, all'ingrasso, buio più. Sono a dieta, caso me ne di nulla. A dieta sono io. Sì, una mazza. Oh, dimagrito, Come no. Figlia. Dai, che metto a caricare questo qua, dai, che scarico, Manuè. Ok, dai, ci sentiamo, dai. Ciao, Tony. Via, ciao, Manuè. Secondo me, 11, mezzano, fai... Andiamo, famone! Deve 6 più 1, come se grammi di qualcuno è in ascolto. Le malattie intestinali alla rianimazione 1 questa notte, perché prima non sarà possibile farlo in quanto non è pronta, sono pronte quelle lì. Ok, allora un ritiro mercedì e bisogna la radio qua, questo lo dici tu, uno perché prima non c'era, no c'è l'ambito aspetta. 214 8. Andiamo, andiamo. Ultimo settaggio di con l'MD100 e il 991. Andiamo, vai, andiamo. Niente. Spero che non arrivo dalle 1, perché è già bella che uscita. Diciamo, lo spero anch'io. No, adesso non sono più. Dammi la bella. Fino a 33 cc ad aria. Regina, un lavatoio chic, è già pronto. Sentite? Dalla telecamera. Per fuori anche.